Vedi, il fatto è che... e che ci credo veramente. Che il rap sta tornando al sud, a casa. Sì, è vero. Tante percussioni, hook ripetuti. Questo è blues, fratelli. È tutto un parlare di dolore. E questo è un fare musica, capite? Con strumenti semplici, con qualsiasi mezzo a disposizione. Quello che hai dentro devi poterlo dire ad alta voce, perché è necessario. Ogni uomo deve, capite? Ogni singolo uomo ha il diritto. Ha il sacrosanto diritto di contribuire con suoi versi.